Barriera, è Barriera. Marco. Eccomi, aspetta che levo lo squelce e vediamo. Attento Gianni, Gianni mi copri. Sì, ti copio. Adesso sono attaccato, quando ti sta rubando. Così è 9.30 pieno. Ascolta, dimmi se c'è il selettore delle potenze. Oppure un tasto unico, alta bassa. No, c'è un selettore. No, la macchina so ce l'ha. Adesso provo a abbassare il cuore, mi radio come esce, mi ascolti bene? Beh, c'è un po' di saturazione, ascolta, prova a staccare direttamente, spegni direttamente la stufa, vediamo la differenza. Così è spento. Sì, cavolo, sei quasi 9.30 lo stesso. Ah, facciamo così, premi la portante col solo baracchino e ti metto a 9. Premi. Adesso attacca. Prova, qua c'è il trifor. Allora, a questo smitter c'è differenza. Allora, ti ho attenuato a 9, quando attacchi sale a 9.15, quindi probabilmente prima sei già a fondo scala, già di tuo, no? Ricordati di pilotarlo con meno watt possibili. Quanti watt li puoi dare, minimo? 4, 3, 2, quanti ne puoi dare? Così è tutto chiuso, i watt sono tutti chiusi. No, già, abbassa però la modulazione perché sei troppo rimbombante, non capisco nulla. Ho detto, i watt sono tutti chiusi adesso. Ehi, ma ti sto chiedendo, quanti watt gli stai dando in ingresso? Più o meno? 2, 3, 4, interrogativo? Non ce l'ho 4, ne davo 3. Ma più o meno saprai se quanto ti dà quel baracco al minimo, no? Vabbè, facciamo che siano 4, da 3, 4. Comunque, quale incremento c'è? È anche notevole. 3 Santiaghi, vedi tu. Sai che siano 4 watt, 4 per 4 16, quindi 15 watt, 15 per 4 60 e siamo 2 Santiaghi, 6 per 4 24, vabbè, magari ne dà 150, 130, comunque qua sale lo Smith, non è molto affidabile che è di baracchino, però l'incremento qua c'è, vediamo se c'è qualcuno all'ascolto qua, avanti sul 10. Poi non dicevi non c'è mai nessuno, però bisogna fare l'attacco bella, mi sono incasinato e non riuscivo a farlo andare. Ascolta, ma posso dire la sigla, se è quello che penso io o te lo mando là? Te l'ho detta la sigla, A e poi A, B? No, è solo A, 3, C. Ah, senza la B, io conoscevo la B, A, B, 300. Ti mando la foto di quello che conoscevo io, Guarda se è questo. No, questo è lo fotografo. Già, sì, rimbombante. Abbassa il microfono, per favore, che è troppo rimbombante. E dimmi la risposta se è quello o no. No, non è quello. Aspetta. L'hai visto, Marco? Sì. Praticamente, non ha il selettore, però siamo lì. Si vede lo spinotto dal remote, che non so cosa sia. Deve essere qualcosa per, diciamo, accenderlo e spegnerlo a distanza, tipo una levettina sotto il sedile, una cosa del genere. Chissà perché mi ricorda il 757, aspetta che cerco la foto. Allora Gianni, guarda la foto, l'hai già vista, guarda, è praticamente il clone, è il clone. E ti dirò che sei fortunato perché dovrebbe montare come finali gli MS1307, che sono gli stessi che ho io e che aveva il 747. Sì, c'è il MOSFET. Sì, quindi adesso la saturazione potrebbe essere anche la vicinanza, già, dovresti fare le prove in distanza. Stasera, per esempio, se entra cosa da San Pei, roba del genere, puoi provare anche a chi, con Luca che in città aveva l'antennino eccetera, e vedere se in distanza satura, se no si potrebbe ridurre i watt, e solo che più tu vedi tanto non puoi abbassare. Ecco già cosa serviva il famoso riduttore di potenza ZG. Cioè, se tu per esempio a meno di 5 o meno di 4 non gliene potevi dare, io una volta avevo il riduttore di potenza ZG che ti abbassava la potenza, avevi anche il selettore delle potenze, te la riduceva fino al 10%, cioè di 4 watt te lo portava anche a 0,4 watt, capito? E serviva per pilotare in modo appropriato quelle cose lì. Però anche quello strumento ZG che avevo è scomparso in casa. Io non so se qua il diavolo ci ha messo mano. Allora, qua è sparito nell'ordine. L'accordatore MFG-HF è scomparso. È sparito quello strumento attenuatore di watt della ZG ed è sparita anche l'antenna bazooka che io avevo nuova, seminuova, è scomparsa. È probabile, già probabile. Marco, guarda adesso se satura la radio. No, allora il problema già, dovresti, ancora una volta ti chiedo, abbassa il microfono perché è talmente rimbombante che è un casino. Abbassa il microfono, poi vediamo come la modulazione. Positivo, confermo, già mi abbassa il microfono, non si capisce niente, cambio. Guarda, guarda adesso a vedere, one, two, three, four. Sembra già meglio, ecco, chi è entrato? Avanti, buonasera. Buonasera Giovanni Stanco, abbassa Gianni, si sente ancora male. Male? Cazzo, sempre modulato questo microfono al massimo. Già, è rimbombante, tu continua a abbassare, cioè per avere una modulazione forte ma non troppo. E così puoi fare la prova con lui senza e con quella cosa lì. No, ma Sacco c'ha un apparecchio che non va bene per dare il segnale. Ieri perlomeno mi ha detto così che non era affidabile. Adesso sei uscito un po' meglio, un po', ma non più di tanto. Adesso ti ho capito, dall'inizio alla fine, una prima assolutamente, neanche una parola. No, adesso sei sparito di radio già. Se mi vedi abbassato, guarda. Bene, per me è buona. Ma deve essere amplificata, non normale. Confermo, è perfetta Gianni, confermo, è perfetta. Quindi a due lo devo ottenere. Se alzo appena appena il making game, guarda se cambia qualcosa. Già sale troppo, cioè troppo perché sono vicino io, non lo so, però prima a me piaceva molto di più. Guarda, abbassa di un millimetro e meno. Guarda adesso, one, two, three. Oddio, già per me è accettabile, io ti capisco adesso, meglio di prima. Deve essere perfetta, non accettabile. Guarda, guarda se così va meglio. Guarda, per me va bene, l'importante è che non urli troppo, se no si sente l'effetto camera. Ascolta, è l'amico che smitterà, che apparato ha? No, è un FM500S, niente di un Intex, 500S è vecchissimo. Ascolta, ma siete vicini voi? Quanto ti arriva Gianni, grosso modo? Allora, guarda, tu, io da te ho un segnale, però non è affidabile, cioè non ti fidare di quello che ti sto dicendo. Il segnale tu non lo stai arrivando neanche a tre come radio. Lui ti passa ma non si capisce niente, è molto meglio la tua come radio e ti ascolto benissimo, molto meglio a te, io sono giù al terzo pettine. A me interessa il segnale, non la radio, dopo la radio lo vediamo. Guarda adesso il segnale per me com'è. Ascolta, passo dall'altra parte, dai, però a me non mi piace il mio dato, a tre non ci stai arrivando, passo dall'altra parte, dai, cambio postazione. A tre. Io ho attaccato perché sennò l'amico mi copia basso, dai. Comunque già, se vuoi attacco anche il 3009 e guardo anche quello Smitter, perché anche questo non è che mi fidi troppo. Vabbè, ma grossolanamente si vede che aumenta, vuol dire che sta andando, capito? È quello che mi interessa. La radio come distorta? C'ha la radio, non mi avete detto che cosa c'ha, se è satura, se è distorta, se è ci sono. aspetta che passo il ricevitore, eccomi qua, 3009, adesso potrei attenuarti con questo. Allora tu premi la portante da liscio e ti porto a, facciamo che ti porto a 7, da. No, no, premi ancora. Attacca. No, lo devo staccare, era attaccato. No, no, staccalo prima. Ci sono quando volete. Così è staccato, guarda, così è staccato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, attaccalo ma con portante a mutta. No, scusa già, se è staccato ti ho messo a 7. E adesso è sempre 7 però. Vedi, non ho messo. Ma già se premendo il tasto giusto, lì ce ne sono 3 di tasti, mi non ti confondere già. No, c'è la luce, si spegne, si accende, adesso mi guarda se è accesa. Guarda il segnale. Allora, a parte che hai dei picchi paurosi già, anche da liscio avevi dei picchi paurosi, secondo me gli stanno entrando troppi watt dentro, però io, che strano, con questo non vedo la differenza, sempre a portante muta dico io, Scusa, il passaggio, fammelo durante la trasmissione, senza staccare il mic, tu premi, attacca e stacca, voglio vedere proprio il passaggio in diretta. Io adesso lo faccio, guarda, adesso mentre sto parlando ti faccio il passaggio. Adesso stacco. Adesso ho staccato. No, però qua c'è qualcosa che non va. Cioè l'altro mi segnava da 9 a 9.15 e qua sale da 7 a 7 e mezzo. Francamente mi fido più di questo smitter che non quello del presidente, che è ambiguo, molto ambiguo. E ci vorrebbero più persone qua, dobbiamo fare le prove quando entra stasera la maggior parte delle persone. Marco, avevo chiuso tutti i watt, dai, prova così a vedere, mettilo a 7 e poi accendo, guarda così, 1, 2, 3, così è spento e così è acceso, guarda se c'è differenza. No, rifammelo, portante muta però, metti al mio, stacca e regolo a 7. Attacca. Allora, qua passa da 7 a 8 e mezzo, 8 e tre quarti, quasi 9. Quindi quasi due Santiaghi, però ricordati, questo mi fido molto più di questo che non quello ambiguo del 3009. Ascolta, dimmi se hai due potenze o una potenza solo, perché lì c'è una levetta in più. Non lo so, una c'è scritto AB e non so cosa sia. Questo passaggio è attaccato, vero già? Guardo su internet. Comunque aspetta che metto le FG in alto e se no non copio l'amico. Attenzione, l'amico di dove aveva detto? Di Platamona, là, generico, mi copi adesso? Attenzione, l'amico di Platamona, mi copi? Ascolto, sì, io mi stanco, mi senti? Ci sentiamo malissimo. Male. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, provo radio, cambio. Che va. Sì, adesso ti copio. Sicuramente mi copierai meglio, che ho messo l'aiutino anch'io. Allora, qua Gianni mi aumenta di un Santiago e tre quarti, quindi quasi due Santiaghi, da. Però non sappiamo qual è la levetta giusta, però già, danno non ne fai. Allora, una è on-off, uno è AM-SSB, ed è solo ritardo staccando la portante, e l'altra per forza o è l'amplificatore di ricezione o è la seconda potenza, alta e bassa. Una delle due. No, io te li dico come sono veramente, non sono così. Uno è l'amplificatore d'antenna, l'altro c'è scritto AB mettendolo in posizione su e nell'altra posizione c'è un'altra cosa, aspetta che devo leggerla perché non me lo ricordo. Vabbè, comunque adesso provo un AB, vediamo un po', andiamo a metterla, prova così a vedere se si può. Allora ti devo di nuovo attenuare, mannaggia, perché sei talmente fuori lo scala già. Aspetta, allora prova A e poi B, però fammi regolarti a 9, dai. Allora questo fai. Premi, vai, metti prima A e poi B. Ok, dai, adesso è A. E così B. Guarda, cosa cambia? Allora, passi da 9 a 9,5, quindi quella è la potenza alta-bassa, passi da 9 a 9,5 e diventa appena un pochino satura però. Ho capito, adesso abbassiamo la potenza, vediamo un po'. Adesso la potenza è al minimo, guarda. Vabbè, no, diciamo già, te la satura abbastanza la modulazione. Abbastanza, ascolta, io adesso alzo tutto le frequenze, non copio l'altro. Il nominativo, ricordami, dell'amico di Platamona o dov'è? Stanco. Giovanni stanco, cambio. Stai di nuovo uscendo male però, sì. È come se l'alimentatore non ce la facesse, mi. Hai ragione. Così la radio buona è andata. Già, io lo sai come, cioè sì, troppo amplificato, è mostruosa. Che dire? Guarda, adesso lo metto a 2, guarda come va, devo regolare la modulazione. È sparatissima già, cioè per città è veramente eccessiva. Gusto personale, effetto un po' stanza, rimbomba, no? Io sto utilizzando per esempio il palmare è messo a metà, vabbè, non fa testo. La senti come la sentivi sempre o sembra più amplificata adesso? Dipende già se parli vicino o lontano, poi io sto sempre cambiando apparato, ogni apparato c'è una timbrica diversa, quindi è difficile per me, che ne so, 2 giorni fa avevo la Linco, ieri il presidente, adesso ho attaccato il 3009 e mi viene, non saprei dire, e poi questo, te l'ho detto, la timbrica cambia anche di ricezione, qua è più acuta con questo apparato. Guarda, adesso mi sono allontanato, guarda come va. Eccellente. Non è satura la modulazione? No, non è satura. Si sente un po' di ventola lontana. E la ventola è l'alimentatore. Poi le dovrò mettere anche una sopralinea. Vabbè, adesso rimane solo aumentare appena. Vediamo un pochettino se aumentando. Quando satura mi devi dire. Marco? Ehi, aspetta già che mi è scappato il mic. Ti dicevo che saturava in quell'altra posizione, si mangia abbastanza radio, eh? Allora dimmi quando comincia a saturare, guarda, 1, 2, 3 e 4, vediamo un po'. No, già dal 3 è bassa, proprio bassa, si mangia la radio. Quindi così a 2 va bene? Però il segnale non è poi così forte con questo apparato, vabbè, sai cos'è, siamo troppo vicini già. Allora, ci vorrebbe un apparato, un Kenwood, in distanza, almeno ai controlli segnale più veritieri. Comunque l'incremento c'è, ricordati, quindi il lineare sta spingendo watt. Dimmi una cosa, ma hai già attaccato il wattmetro o sei provvisoriamente solo con la stufetta? No, provvisorio. Come? Sono provvisorio. Ok, quindi il prossimo passaggio potrebbe essere quello, attaccare più che il rosmetro, là c'è proprio vedere i watt. Non mi ricordo se il tuo era gli incrociati oppure no. Se hai gli incrociati vedi direttamente tutti e due, i watt e le stazionarie che ovviamente non ci saranno. Ma tu pensa invece a quell'altro apparato col presidente, mi segnava, tu passavi da 9 a 9 più 15. Quindi vedi, ogni apparato c'ha lo smitter a conto gioio. Vabbè, non mi sta soddisfatto, non mi sta curando. Gianni, siete troppo vicini, io vi sento benissimo, bene. Cosa, stanco, non ti ho capito. Ho detto che forse dipende dalla vicinanza, siete troppo vicini, perché io la vedo la differenza e ti sento benissimo. È appagato. Ti ringrazio Marco, dai. Adesso vedrò cosa fare. Deciderò, non lo so. Ehi, comunque già, gira gira, conviene lasciarlo nella posizione più bassa, perché la radio te la manteneva migliore. Te la manteneva migliore, cioè è meglio accontentarsi magari di 80, 90 watt teorici, no? 70, 80, 90, che non, che ne so, 120 o 130, ma che ti sporcano la radio, tanto la differenza poi era minima, cioè minima non, cavolo, da 995 è un Santiago in più, Ehi Marco, sono alla minima adesso, sta saturando perché... No, va bene, diciamo è l'amico di Platamona, Franco, come si chiama? Stanco, sta andando proprio male il pro di modulazione, il segnale a bomba, ma è proprio così, lo sento, mi, e non c'ha quasi radio. Amici di Provo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dove volevo male questo, come mi senti adesso? È tutto vibrato, male, tutto vibrato, l'alimentatore non ce la fa, guarda, hai fatto un passaggio intermedio che andava bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mi ascolti, cambio. Sì, meglio abbassare un po', però almeno ti capisco, dai. Questo apparato non lo uso quasi mai, niente, vediamo un attimo adesso. Male, abbassa di più, guarda, o gli abbassi i watt del lineare o i watt di pilotaggio, non una dei due. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mi ascolti, cambio. Però non capisco, passi mentre parli, mentre stai parlando, prima arrivi 9 capibile, poi sì, 9 più 10, tutto vibrato. È come se ci avessi un contatto che va e viene, mi. Può essere, lo sento anch'io, però adesso sono con la cassa esterna, non so se magari potrebbe essere la causa. Non ti capisco, dai. Guarda, era meglio come prima allora, senza nulla, però arrivavi 7 di segnale, però arrivavi, è ricapibile di radio. Vabbè, io adesso sono attaccato, avrò una settantina di watt, dai, non di più. No, qui non c'è niente, Brucchio. Non ti capisco. Gianni, c'è ancora? Sì, ci sono, ma non mi Ehi, ma tu lo capisci l'amico? Io no, sento questo No, non lo capisco. Comunque adesso la radio è discretamente bassa, però non so, non c'è una costante. Stavo notando una cosa invece, da liscio, ti spiego, da liscio, quando è proprio liscio, a portante muta eri tot, no? Quando andavi a modulare ci avevi dei picchi allucinanti, quindi sicuramente tu hai molti watt modulati e quindi va a saturare lineare, perché gli stai dando watt modulati in ingresso in eccesso, in poche parole. Si notava, perché passavi, pensa, da 7 arrivavi quasi 8-9 modulandomi. Qua è diverso, per esempio io ho 4 watt di portante a muta, quando modulo si arriva a 4,1 di watt, massimo 4,2 se fischi, però i watt sono sempre contenuti e quindi non saturo per quello, almeno credo. Quindi già, sostanzialmente è un clone del 757 quello. Sì, più o meno sì. Allora, ho letto su Roger K, spero di non sbagliare, quello lì dovrebbe avere gli stessi finali MS1307 sia del 747 sia di questo che ho io, e si chiamano MS, cioè Mike Sierra 1307. Ed è meglio di quel finale maledetto, quello a croce, che satura sempre invece questi sono un tantino migliori come finali, sopportano meglio. Però è strano che tu avevi quello che avevi preso tu grosso, no? Quello lì, non so, per quale motivo saturava sempre, quando mettevi le marce alte saturava, mentre in teoria non dovrebbe pilotato con i watt bassi non dovrebbe, perché proprio la pulizia del MOSFET era quella, capito già? Lo so, tutto questo scarogna che lo aveva. Adesso devo mettere l'antenna diretta al baracchino, poi il baracchino lineare e poi lineare rosmetro, così. No, scusa, non puoi mettere l'antenna diretta al baracchino. Allora, baracchino, lineare, wattmetro, antenna, baracchino, lineare, wattmetro, antenna. Ce lo ripetere, baracchino, lineare, wattmetro, antenna. Buon Marco, dai, ti saluto adesso, vado. Scusa la voce nasale, ma ho la narice sinistra completamente fuori uso, chiusa. Ok, ci si sente al limite più tardi, così almeno vedi anche i watt che dà, li vedi proprio visivamente. Ciao, ci sentiamo già, ciao. Ciao Marco, grazie. Attento l'amico di Platamona, se ancora l'ascolto, cambio. Prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sta salendo, sì, 1, 2, 3, prova. Come già? No, no. Come da due stazionali e di qua ti vedo di poco. Aspetta un attimo. Ehi, parla vicino al mic però, non si capisce. Adesso si capisce. Troppo, troppo. Che sono la guarda parecchia. Eia, stavi dicendo stazionario, hai detto, ma hai attaccato lo strumento? Non si è capita la risposta. Ho detto di sì. Ascolta, quanto ti segna nelle due posizioni, sia l'una che l'altra? Oh, no, no. Qualche cavo ho messo male. Ricordati già, allora, dietro il lineare, la parte sinistra, il bocchettone sinistro va al baracchino, almeno il mio è così, tutti così sono, la parte destra va all'antenna o che sia lo strumento e poi l'antenna. Va bene, e poi sì, bisogna accertarsi che le ispezioni siano in buono stato e che non abbiano farsi contatti sia la calza che il centrale, anche a me l'ha fatto, l'ha fatto, tipo la calza toccava male una volta e mi sballava tutto. Eppure già è semplice, cioè l'hai sempre fatto, no? Ti ho detto, a meno che qualche spezzone non sia un po', sai, attacca, stacca, e sia un po', che abbia un po' di gioco, boh. Liscio o attaccato? Adesso attaccato. Attaccato? Ma il segnale sembra liscio quasi. Non so, c'è qualcosa che non funge lì. Porca miseria. Non è che hai invertito le lineare ingresso-uscita, no? O roba del genere. No, non penso, ma adesso come ti gioco grande torre, guarda, se mi si è confuso, aspetta che guardo, non penso. Poi alle volte si sente un ronzio forte quando premi, come se ci fosse qualcosa di che non è bene a massa, cosa ne gioco? Vediamo qua. Vabbè, questo è lo strumento mio, l'amperometro mi segna sempre il negativo, ma è l'amperometro che è fatto così. Ci sei ancora Gianni? Vabbè, spiegami già, beh, cosa vedi sul wattmetro? Che salgo alla stazionaria in buco. Oh, quando attacchi salgono le stazionarie. E allora vuol dire che però l'impedenza del lineare stesso è alterata, non è proprio 50 ohm. Capito? Rispetto all'antenna di 50 ohm il lineare è come fosse disadattato di impedenza, in poche parole, ecco. Ma guarda che sono ritocchini, tarature, ma niente di che. Ma i watt, tu li vedi, dimmi grosso modo quanto segna. A parte le stazionarie, no, quelle fregatene. No, non ne sta dando qua, proprio niente. Oh, balle già, ma io prima, quando avevi fatto le prove senza strumento, te l'ho detto, la cosa che ho notato di più era da 7 a quasi 9. E AB, guarda, non so se AB voglia dire alta e bassa potenza, alta, bassa, oppure classe A e classe B, però dubito che quei lineari lavorino in classe A. Dubito fortemente, no? Si sposta appena appena da zero. E sono con scala 100. Aspetta, che scala hai messo? Che scala hai messo? Scala 100? Oppure è più alta? 100, poi l'ho provata anche con un kilowatt. Con un kilowatt è lo stesso. Boh, a me pare strano. Prima l'incremento c'era, poi addirittura da quando avevi mosso quella levetta eri passato da 9 a 9,5 anche, no? E quindi un ulteriore Santiago in più. Boh, che non abbia invertito qualcosa. Ricordati, dietro il lineare la parte sinistra va al baracchino, la parte destra va all'antenna o alla strumentazione più l'antenna. E, oh già, ti posso chiedere che strumento stai utilizzando? L'HP1000, TM1000, come si chiama? Non ci siamo, da. Allora Gianni, se sei ancora all'ascolto, allora controlla, l'unica cosa che hai aggiunto è lo strumento, controlla di aver messo lo strumento giusto, quindi RTX va verso il lineare e l'antenna, dove c'è scritto ANT più o meno, X è il trasmettitore, ANT antenna, lì c'è poco da sbagliare. Ui, qua sta calando il sole, ma che ora è? Le 5? Sono passate le 5 e un quarto, cavolo. Credo fosse più presto, vabbè. Poi quando puoi rispondere rispondi. Marco. Ehi, che mi dici già? Niente, stacca tutto, mi sono rotto. Mi sono rotto le palle. Non posso stare così. Dicevo prima già, non è che per caso quando hai attaccato lo strumento hai invertito con rosmetro antenna e RTX ANT, cioè trasmettitore antenna, no? No, oh, dai, ho provato tutte le posizioni, ma non è quello. Cambi le luci. Solo che adesso non mi sale di qua, ecco perché c'è il povero la borsa di Rubini dove non alzava, bisogna scusare. Adesso la radio bene fa. Sì, se parli un po' vicino al mic, sì. Non ti allontanare troppo, magari perché l'avevi regolato basso, no? Quindi lascialo così, ma parla un po' più vicino. No, adesso lo alzo, guarda come va adesso. E adesso è una bomba. Puro, ripeto, pure troppo per città, però già va. Comunque già, ripeto, tu quando hai fatto la prima prova l'incremento c'era, di quasi 2 Santiaghi, e in quell'ulteriore prova della levetta un Santiago in più, e ti mangiava però la radio, perché come ti ho detto prima, tu con la portante muta avevi un segnale da liscio, ma quando parlavi ci avevi dei picchi allucinanti, quindi vuol dire che comunque stai dando troppi watt modulati, ecco perché io dico già, se tu devi fare le prove di un lineare che non sai come funziona, dovresti usare un baracchino normale con il microfono normale, niente amplificati, niente, no, baracchino normale anche omologato e il microfono anche di serie, perché se tu gli dai di picchi allucinanti in ingresso, è chiaro che più lo alzi più ti mangia la radio, capito? Gli arrivano troppi watt dentro. Secondo me questo era il problema che ti dava anche quello il 503 mi. Aspetta, provo con lui. Guarda, ce l'hai un baracchino normale con microfono normale? Un omologato non ce l'hai, un portatile non ce l'hai. Mamma mia, questo naso mi sta facendo impazzire, per carità. Anche la trombetta fa. Qui ci vorrebbe un po' di bamba per stappare le narici, altro che... Attenzione Marco, mi ascolti. Eia, anche questo c'è una modulazione prepotente. Ascolta, come partiamo? Cioè, cosa vuoi fare? Dimmi se è lo strumento o l'hai tolto. No, non è lo strumento, non lo so usare. Allora, facciamo così, ti attenuo, tu metti potenza minima con Royce, ti metto a, facciamo 7, Santiago 7, premi la portante. Ora. Allora, attacca. Io un pulsantino è già. Lo so, ma allo sguardo alimentatore sono andato a vedere. Guarda, adesso 1, 2, 3, 4, 5. Allora, da 7 sei passato a 9, però abbastanza saturello. Guarda questo passaggio, 1, 2, 3, 4, 5. Allora, è calato appena a 8,5, 8,75. Però è meno satura, è che tu c'hai troppa modulazione già. Infatti ti dicevo, ma non c'hai l'Alan 48 Plus Multi, un baracchino normale, che ti dà una radio normale, non ce l'hai. L'avevo venduto. Male. Bisogna avere sempre un baracchino normale per testare i lineari, condizioni normali, senza mega amplificati, senza così. Comunque già, ripeto. Allora fammi il passaggio in diretta, lascia così la levetta delle due potenze. Fai in un unico passaggio, attaccato e staccato. Così attaccato e così staccato. Sì, praticamente confermo cosa ho detto prima. Da 7 a 9, a quasi 9, 8 e 3 quarti, ma sei a filo di 9. Quindi la potenza la sta dando, io non capisco perché il tuo wattmetro non ti legge i watt. Ti legge stazionare alte e non ti legge i watt, non ci compresi uno. Non lo so, ma adesso se dipende dal watt, ma non penso. La Camilla l'ho comprato da poco. Aspetta. Qua dovrebbe dare anche calibrazione, i watt non li dà qua. C'è solo power. Da niente, nulla, non è da di parte, aspetta, no, non è da. Ehi, naturalmente la sezione accordante già l'avevi disabilitata, l'accordatore l'avevi disabilitato per vedere le stazionarie reali, no? Se no ti altera tutto. Sì, l'ho riparato tutto lì, l'ambaradà. Adesso attacca di nuovo, parla, però senza gridare, parla normale, piano, mi così, 1, 2, 3, prova. Ehi, guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, qua c'è un incremento di, te l'ho detto, quasi 2 Santiaghi. E dimmi la levetta AB, dove è posizionata, su A o su B? Su A. Ecco, mi chiedevo cosa fosse questo AB, classe A di funzionamento, classe B, oppure alta e bassa. Prova a mettere B di nuovo. Così B, guarda, 1, 2, 3, 4, 5. Sì, come... Allora, scusa già, perdona la... Allora, da pressoché 9 a 9,5. Quindi quando metti B, da ulteriori watt e quindi sono 3 santiaghi, quindi il massimo è da 7 liscio a 9 più 5, sono 3 santiaghi. Quindi il lineare sta dando i watt, perché se no lo smitter non salirebbe. Sta funzionando, confermo che sta funzionando. Bisogna capire adesso che cosa c'ha il TM1000, magari hai... Ma tu mi hai detto che non hai invertito i cavetti, no? Allora non saprei che dire già. Comunque il lineare sta funzionando. Se vuoi lo proviamo in SSB, in FM, vuoi provare in FM? Allora FM, dai. Marco, non ce l'ho lo FM nel Ruiz. Ah, è copiato in diretta, dai, ok. Va bene, no, perché ti dirò, perché in FM in teoria non dovrebbe saturare, la M tende a saturare, no? Soprattutto con i picchi di modulazione, invece in FM dovrebbe essere limpido, dovrebbe, e poi tutto è sempre un'incognita. Vuoi provare in USB? Microscopio a vedere lo smitter, con i segnali già fanno scala non cambia, quindi attenuandoti almeno c'avevo l'idea di come era l'aumento, capito? Quindi ricordati, posizione A quasi 2 santiaghi, posizione B 3 santiaghi. È buona, ma la radio è meglio questa? Meglio questa, e io so già il perché. Allora, da liscio ti ho messo a 7 di portante muta, quando moduli sai solo mezzo santiago in più modulato, no? Attenuato, da 7 a 7 e mezzo modulato, con l'altro era terribile perché da 7 passavi quasi a 8-9, quindi stavi dando troppi watt modulati in ingresso, come ti ho detto prima, e quindi andavi a saturare molto peggio con l'altra radio. Papa, io adesso ti dico una cosa, con questo sono al massimo del power, ho messo il power al massimo per vedere se c'è equilibrio della distorsione della radio. Sì, 9 più 5 con saturazione, ma il power tu, il power della radio o del lineare, però spiega. Radio, solo aspetta un attimo, voglio sentire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, già, però non ho capito la risposta, il power della radio è messo a manetta o il power del lineare? Dalla radio, ma adesso ho chiuso, vai. Adesso provo a controllarlo qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, così come mi senti? Beh già, non cambia molto però, io non so quanto sia il Royce, quanti watt di al minimo e al massimo, però non è che cambia molto qua al mio orecchio. Il Royce mi dà 5 watt, 4 watt e mezzo, va. Al minimo e al massimo quanti te ne dà? Non ne ha di power, il Galaxy c'ha del power. Mi hai detto che, già, mi avevi detto che avevi mosso le ripatte da radio. Vabbè, e non si batte il lineare, dai. Comunque me ne accorgo dal segnale perché è 9 più 5 quando... quando sei al massimo. Quando invece stacchi, scende a 9, circa 9 da. KK. Adesso sono staccato, come sei andato? Beh, ultimamente già, ultimamente. Quindi ricordati, comunque già due Santiaghi sono tanti, Due Santiaghi sono tanti. Mi chiedevo se uno lo pilotasse con 2 o 3 watt se migliorerebbe ulteriormente la radio. Comunque guarda, 2 Santiaghi è di lusso già, cioè 2 Santiaghi è 10 decibel, 12, dipende come le interpreti, è tanta roba, Quindi basterebbe, se non vuoi saturare, basta metterlo alla potenza minima, è tutto lì. Ascolta, lo tolgo l'attenuatore adesso. Ok, adesso sono liscio. Premi portante mutta. Sì, 7, sempre 7. Quindi capito, volendo, guarda, secondo me con un baracchino di sequili omologati che hanno 3 watt, 3,5, sarebbe ottimale il pilotaggio, sì. Va bene. No, la metà io lo lascio solo con il russo e basta. Quando uso il russo lo attacco, se no uso la bella luce, perché non mi piace la radio, no? Satura non mi piace, deve essere bella la radio, come sto uscendo adesso. Ehi, te l'ho detto, usalo in bassa potenza, però già, ripeto, per scrupolo maggiore, fai le prove in distanza, è che se tu sei talmente vicino al mare, c'è il mare davanti, che anche se fai le prove tipo con Gavino, con Franco di Sorso, è come se fossi in città, ci vorrebbe qualcuno di ancora più lontano. Una volta entrava a Chiodo Arrugginito, per esempio, da Muros, vedi, quella era una prova già più affidabile. Con Alghero sarebbe ottimale fare le prove, è che un po' quelli di Alghero li sento poco, molto poco. Vabbè, dai. Ritorno a chiamare un attimo, buonanotte, già mille luci. Lascio tutto così. Metti la potenza bassa di nuovo, un'ulteriore prova, poi ti lascio in pace. Così è bassa? Sì, già, così. Guarda, io credo che all'orecchio mio ti mantiene la radio quasi originale, praticamente originale. Ma è in regalo, in vendita, com'è sta storia? No, me l'hanno regalato. Se è regalato, cosa vuoi restituire? Se luci così, c'hai 2 Santiaghi di incremento, e grasso che cola già. Guarda, rispetto al vecchio che avevi tu, il vecchio saturava sempre già. Il vecchio, ti ricordi, non riuscivamo a capire il perché, ma era sempre saturo, anche quando abbassavi un po'. Dalla metà in poi era già saturo, lì avevi il selettore mi pare a 6 scatti, già a metà era già saturazione, questo è già molto meglio al mio orecchio, poi vedi tu, comunque sei regalato a caval donato, non si guarda in bocca. Magari con questo lo posso usare, ma non vedo segnali, non vedo segnali nello smitter, non mi piace per quello, negli strumenti, non riesco a capire cosa sto sbagliando. Ah, cioè su Royce, no, il segnale inteso il wattmetro, ma il mio segnale dello Smith già lo vedi, sì? Sì, quello sì. Quindi è lo strumento, il wattmetro, lo smetro, che non capisci qual è la magagna, così è. E allora? Comunque ricordati già, a potenza minima va bene, e poi guarda che non è tanto minima, perché tu a occhio, guarda, se c'è 4,5 watt, qua ci avrai almeno 70 watt ci avrai. E la modulazione rimane limpida, al mio orecchio, limpida. Se tu lo usi così è già ottimo. Beh, io c'ha gli stessi watt che ho io. Lì probabilmente passa da 70 watt, vediamo, 7x4, non credo che li dia 200, ma metti che siano 150, che passi da 70 a 150, però ti sporca la radio. Quindi è meglio 70 puliti che 150 teorici e ti sporca la radio. È tutto lì. Comunque il segnale aumenta e la voglia si aumenta. Ma da 170 esattamente. Ah, te l'ha detto il vecchio padrone? No, lo so perché l'ho guardato su internet. In AM, cioè intendi in AM? Ok, quindi in banda laterale ne darà almeno il doppio, Quindi con questo qui mi senti bene, dai. Sì, sì, già. Bene, bene. Te l'ho detto, quello che sporca è l'ultima, la posizione alta è che sporca la radio. Però secondo me si potrebbe migliorare con meno watt, che è che tu non hai il riduttore di potenza. Quello ZG, quello che è sparito a me, mi. Qua si l'ha nemagnato, deve essere finito nella mondezza, vedrai, scommetti. Calma, calma, dai. Niente. Allora, Marco, io ti saluto adesso e vado a farmi qualche canzone, dai, perché sono già assillato. Teia, ho tolto l'attenuatore e quindi si fa lo scala praticamente già. Va bene, puoi fare le prove con calma con gli altri. Stasera se entrano, quando entrano, ok, dai, sentiremo se non è oggi è domani. Ciao, già, buona cantata, ciao. Ciao, grazie, ciao, ciao. Marco. Da 44, con la maggiore potenza andava da 50, 40, 45, ora. qua. Hola, hola, hola. Sarebbero non quelli sperati, però già, quindi 5 watt Rolls, 5 per 4 20, 20 per 2 40, diciamo un centesimo e mezzo dovrebbe essere l'incremento, no? E comunque se esce pulito è tanta roba. Ricordati di mettere la potenza minima. Comunque ho visto quel selettore, lì c'è scritto class AB oppure C. Io lì non saprei cosa sia, credo che sia la classe di funzionamento. Solo che quando metti la roba che spinge di più te la satura, ecco. Comunque meglio di niente, se è regalato è tipo questo, metti tipo questo. Certo, per i watt si sperava qualcosa in più, quindi praticamente sta dando un po' meno watt addirittura di questo, dovrebbe darne molti di più, molti di più. Marco, non me ne segna quali watt, mi segna, adesso sono con 100 watt e mi sta dando sui 20, 30 watt, dai. Una quarantina? Già, meglio di niente, meglio di niente. E che te l'ho detto, la modulazione tua con quell'apparato è un po' al limite, ripeto, troppi watt in ingresso modulati, in poche parole, quindi un po' te la sciupa. E che tu con quel microfono o esci troppo basso o esci troppo alto, probabilmente sai, era come col K, abbassavi di un millimetro il mic gain o uscivi troppo forte o uscivi troppo basso, o erano i watt, non mi ricordo.